so se qualcuno si è ricordato della proposta fatta, pensando che, allora credo opportuno fare qualche riflessione veloce, però se qualcuno da aggiungere può aggiungere. Intanto al centro dell'attenzione ci sono due persone, la donna samaritana, l'ebreo, Gesù. Il luogo dell'incontro è il cosiddetto pozzo di Sicar. Il dialogo incontro tra i due è immenso, immenso di significati. E quindi anche per noi è immenso. Provo a suggerire. La donna. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che io ho fatto. Domanda tormento. Che sia lui il Messia? Al pozzo del padre Giacobbe, lui, l'ebreo Gesù, ha chiesto dell'acqua. La parlata tradiva la sua provenienza, un uomo della Galilea, quindi un giudeo. La donna intuisce che c'era qualcosa di intrigante in quel viandante, perché rivolgendole la parola osava spezzare il muro del silenzio, il muro del disprezzo tra due popoli. Quindi non era una mossa ingenua la sua. Era consapevole di parlare a una donna per giunta samaritana. Diremmo un gesto trasgressivo. La donna poteva lasciar perdere, dare l'acqua e basta. Invece, sempre la donna, ha colto l'opportunità. Ha afferrato l'opportunità per chiedere ciò che da sempre probabilmente giaceva nel cuore di questa donna. Come mai due popoli così vicini si odiano? Attualità, eh? Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, donna e samaritana? Andiamo a Gerusalemme un attimo e vediamo che cosa avviene da arabi e israeliti e comprendiamo meglio. Altro passaggio. Gesù non trova inopportuna la domanda della donna. Perché tu domandi da bere a me? E così il dialogo profondo, abbastanza serrato, tra i due, che sono audaci interlocutori, si è alzata la posta in gioco, cioè dall'acqua semplice all'acqua della vita, quella in grado di sanare situazioni, soprattutto quelle inaridite, cioè di cambiare il modo di considerare lo stile di vita, quello quotidiano, modificare le abitudini, anche quelle più ordinarie. Una conversazione incalzante, ma anche perfino dolorosa, come quando Gesù mette la donna di fronte alla sua vita. Ancora la donna chiede dove bisogna adorare Dio. E lui, Gesù, suggerisce qualcosa d'altro. Sposta dal monte Sicar, o Gerusalemme, allo Spirito e verità. Fa impressione il fatto che la donna ha capito al volo che non è tanto importante dove, ma come si può parlare con Dio, si può adorare Dio. Uguale a la libertà dello spirito in grado di superare barriere e divisioni. C'è un passaggio che è stupendo, almeno secondo me. La donna quasi costringe il suo interlocutore, Gesù, a rivelare la sua identità. Gesù ha detto tutta la verità sulla vita della donna e lei lo ha spinto a svelarsi e lui non si è tirato indietro. Notiamo, ciò che non ha svelato neppure i suoi e neppure Pilato, che proprio su questo lo interrogava, lo ha invece confidato a lei, una donna. Bellissima. Io so chi è il Messia, il Cristo deve venire. Sono io colui che ti parla. Ecco svelato l'identità di Gesù. Da qui, dopo quelle rivelazioni, alla fine si allontana e lo fa di corsa. Abbandona la sua brocca, come hanno fatto i discepoli che hanno abbandonato le reti per seguire il Signore. Questa donna diventa uno dei discepoli, di fatto. Faccio notare, capite perché non è importante stare a insistere sulla vita irregolare della donna, quanto invece la sua libertà, anzi, la sua felicità nell'aver incontrato il Messia. E che felicità correre a testimoniare questa sua fiducia, questa sua fede, tanto che la gente del suo villaggio ha riconosciuto nelle sue parole non solo autorevolezza, ma anche sapienza. Venite a vedere, venite a incontrare colui che... E per chiudere, testimone dell'acqua della vita, non dimentica l'altra acqua, quella che si attinge al pozzo. Racconta della sua vita, del suo incontro con Gesù, e poi si pone la domanda: non sarà lui il Cristo? Per dire che questa donna è una testimone di fede per tutti noi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti